Cosa è successo? Che è partita questa prima bozza, è stata presentata agli assessorati, è stata rivista anche dalla commissione, dall'assessorato alla cultura che ha moltissime delle sponsorizzazioni e alla fine insomma è stata prodotta una prima bozza, le organizzazioni l'hanno rivista e hanno apportato una serie di emendamenti. E su questi emendamenti abbiamo costruito la campagna che si chiama campagna Sponsor Etici, che appunto andavano a introdurre una serie di punti fondamentali per far sì che il Comune di Roma nel regolamento inserisse appunto questi criteri di valutazione. La campagna ha raccolto più di 200 firme di associazioni che vanno anche oltre, no? Il tavolo dell'altra economia. Cosa significa? Innanzitutto che un'impresa qualsiasi sia, nel senso che un'impresa che vuole oggi chiedere per un evento una sponsorizzazione con il Comune di Roma, diciamo ad esempio un concerto, il Comune di Roma vuole un concerto, chiede delle sponsorizzazioni, ecco, questa impresa dovrà presentare un'autocertificazione innanzitutto che certifica che non è coinvolta appunto in operazioni che violano l'articolo appunto 6 di questo regolamento, cioè che si rifà a una normativa ONU che è stata emessa nel 2003, nell'agosto del 2003, che è indirizzata alla responsabilità sociale delle imprese. Cioè una normativa che raccoglie tutti i trattati in materia di lavoro, impatto ambientale, sfruttamento del lavoro minorile, commercio di armi, cioè insomma raccoglie tutta una serie di trattati e elabora dei punti per cui chiede alle multinazionali e alle imprese di rispettare questi punti, per cui essenzialmente ci sarà poi uno strumento che farà questa valutazione, che è un comitato etico che sarà scelto tra 60 giorni. Questo comitato dovrà, una volta che viene richiesta una sponsorizzazione, decidere se questa impresa ha i requisiti fondamentali e per cui potrà dare un parere agli organi amministrativi e in base a questo parere gli organi decideranno se accettare o no questa sponsorizzazione. Un'altra cosa sicuramente rilevante è quello appunto dell'ordine del giorno che è passato, che appunto impegna il sindaco e la giunta a dotarsi anche di criteri etici nella valutazione delle tesorerie del comune, ossia c'è anche un passaggio all'interno del regolamento: non è possibile accettare sponsorizzazioni di banche che sono coinvolte o sostengono direttamente il commercio e dunque finanziano le armi, e di conseguenza, come voi sapete, il Comune di Roma ha sia il Banco di Roma, INL e altre, che sono secondo la legge 185 in maniera trasparente le più impegnate nel sostegno di questo tipo di commercio. Per cui si dà un tempo di adeguamento, ma il Comune di Roma dovrà rispetto a questo anche seguire una pressione, no, nei confronti di queste banche.